Complimenti a tutti i pianisti, perché non è facile. Bene, Scaletta, ho ancora pochi pezzi. Andrò ad eseguire un'altra canzone che faccio con i Super Santos, un brano che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. Il brano in questione si intitola Stop e lo utilizzerò con il suono del pianoforte. Pam pam pam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam pam tam approccio conclusivo con te. Sono troppo lunghi questi tuoi stop, sono troppo lunghi questi tuoi stop. Non mi puoi fermare ogni volta che tento il mio approccio definitivo con te. Sono troppo lunghi questi tuoi stop, sono troppo lunghi questi tuoi stop. Segui quella strada, vedi quanto amore. Io non ci credevo, ma è vero. Segui quella strada per la redenzione. Io non ci credevo, ma è vero. Non mi puoi fermare ogni volta che approccio definitivo con te. Sono troppo lunghi questi tuoi stop, sono troppo lunghi questi tuoi stop. Non mi puoi fermare ogni volta che tento il mio approccio da sconvolto con te. Sono troppo lunghi questi tuoi stop, sono troppo lunghi questi tuoi stop. Segui quella strada, vedi quanto amore. Io non ci credevo, ma è vero. Segui quella strada per la redenzione. Io non ci credevo, ma è vero. Credevo, ma è vero. Segui quella strada per la redenzione. Io non ci credevo, ma è vero. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Grazie.